Bari. Sì, chi può essere? Sì, ok, Franco, da me stai arrivando Santiago 7, Radio 5 è un po' rauca. Non sai che zona sono? Santa Maria di Pisa. Aspetta un attimino che provo con l'altro a vedere. Franco, con questo cambia un pochino, quello deve essere un po' ristretto, ma questo è 9. Oh, quello lo smettere frega un po'. Non è cambiato nulla, vedete che mi pongo di più per fare un giro. Prova a vedere. Sì, mister. No, non ha cambiato nulla, fra. Aspetta un attimo, Gio Marì. Non è cambiato nulla, no. Sempre uguale. No, aspetta, adesso è cambiato, sì, sì. Adesso è 9:20. Sì, Gio Marì. Buonasera. Ok, buonasera anche a lui. Come mai in casa? In campagna c'è in casa? Segnalo che raccoglie la campagna qua. Vabbè, con questo sono con quello, perché quello là deve essere che ruba, quelli di fuori ruba. Ah, io sono a casa. No, ma sono uscito oggi. Sono stata di casa a to. Tu stai in casa. Chi era Galifano quello lì, quello di poco fa? No, Franco da Sorso. Gli ha chiuso il resto. No, non lo so, aspetta se lo chiamo. Franco, deve essere che ha chiuso. Deve essere chiuso. Tu non sei uscito? Stamattina, stasera, poco fa sono andato a accompagnare mio nipote a casa sua. E no, mia moglie ha detto non vuoi più. Ero tutta la macchina nel magazzino, il cappugliese, che cosa vuoi fare? Perché ammazzare il tempo, là, fanno lasciare 3 chilometri che l'hanno fatto. Allora perché ogni tanto scendo e faccio qualche cosetta anche in cappuglio. Io stamattina sono andato a portatore già a vedere le macchine del rally. Oggi c'era l'ultima prova, mi sa che è ultimo. L'ultima è, hanno venuto tutta a gira, hanno finito tutto quanto, la premiazione è Alghero, che sono ancora belli. Alghero fa la premiazione. Certo. Come il solito. Come il solito a fare certo Alghero le premiazioni. Perché c'è una sensazione lì. Infatti, fate così quello che fanno. Ma io li ho visti, erano a Foggio, a Porto Torres, vicino a Balai. Porta gente c'era là? Sì, pieno era. Pieno, parecchia gente, ma parecchia gente anche a bagno c'era. E poi quest'anno era mondiale, capisci? Era mondiale, non è come gli altri anni che li facevano. Quest'anno invece era mondiale, da tutte le parti ce n'erano. E infatti, c'erano da tutte le parti. Ma chi ce lo ha sentito? Ancora no, ma rientrerà dopo. Oggi ha si abbronzato in campagna, ya. Con un gatto che ha fatto oggi. Claro grido. Nonostante che è un po' frizzata l'aria, è tutto caldo questo qua. E da fare adesso, mi sembra che aumenta. Per oggi aveva messo 32 gradi, invece la mia a 20 nubi, in macchina tu mangiò mi segnava a 20 nubi. Magari qua, magari a Cagliari magari era più di 32 gradi. Infatti, la mattina adesso era più di 32 gradi a Cagliari, almeno. E lì sotto è più calda, la zona più calda lì, là. Tira l'Africa, che è sempre più caldo. Infatti, lì è sempre più caldo e tutto. E vabbè. Ecco, sì. Ah, io stavo il passo là, da una parte all'altra. Però non è che ce n'è tanta propagazione, poca gente. Solo 38, 39 sui centesimi. Ma io mi sto per battere a 34. C'erano i brasiliani, i portoghesi, e c'erano anche molti italiani pure là. Allora, con l'unico che stavo parlando era con tutto Galabrigio. Sul tren 38 io va a vedere un sito Galabrigio, ma 9:10 ma arriva subito forse di tutto. E la Calabria Sicilia là, quelli arrivava forse sempre là, siamo vicini a loro. Certo, poi c'era questo di cosa di Roma, questo romano qua era a voce Roma stessi, era un battuto. Un giro fa vedere, in tre ira mi fa vedere, non entrava nessun altro. Ma oggi non tanto, ieri c'era più gente, ieri era pieno, tutti i canali erano pieni. Ma deve essere che stavano pompando tutti e due stavano pompando. Ecco cosa è. Io da quello lì mi sono dovuto trasferire con questo, per parlarci bene. Ha fatto scala tutto. Il Borghese, quindi quello là. Infatti. Si sente. Va bene. Purtroppo è normale, no? No, quello là sto usando, non quello non emologato. Non ho capito. Non sto usando l'emologato. Già lo so. Già ho capito. Anche quello bisogna farlo saldare, no? Ogni tanto anche questo bisogna farlo saldare, farlo girare, se no si guasta. E questo è il segnale quant'è? Oh, 4 watt sto io, 9:20, Gio Maria. 9:20, No, aspetta che stacco il coso. Prova a vedere. Attenuato ieri. Adesso magari di più. 9:30 e più. Ma sto così, dai. Ho regolato a 4 parte, che già va bene. Questo io l'ho regolato. Questo mi sta dando, se no, 15 watt. Non lo metto mai. Va bene così. Poi sto con il blocchetto, ma raramente lo metto. Se lo metto, tanto questo qua, però non c'è bisogno, dai. Tanto, gli extra li siamo qui. Ieri c'era cosa, come si chiama, quello di Usilo, uranio, facendo di extra rotta di collo, insomma arrivava forte ieri qua. Deve essere che stava usando qualche scarpetta, stava usando la pericograde, stava usando anche, no, sì, allora sì che parli di te. Io ti stavo dicendo, stavo parlando con questo della Calabria e di Roma. Cazzo, ma ha detto che da Ede arrivi a voi, io, ha detto, come forte. No, tu stai usando qualche cosa, no, io non sto usando nulla. Ha detto, io sto usando l'Intec, che questa non è voce da Intec. Ma quando c'è la propagazione... con 4 watt, lì sai dove ci arrivo, non hai idea tu, giusto? No, c'è una propagazione buona, anche con 4 watt, Vanno forte. Lo so. Certo, dici che arrivi a voti da Edo. No, 9.20, 9.30 quasi. Va bene, mi scaccia. Che mai, che fare dire. Arrivare anche alla vasca, sto. Anche alla vasca sono arrivato io. Va. Da 2 anni. Lo so. A me con il coso lì stavo parlando con questi due ed era mi vendi a coso ristretto. No, ma non eravamo in AM, eravamo in USB, eravamo. Questo sta fischiando, si è vero, boh? Non lo so chi sia. Hai sei lì? Lì sembra andare laterale. Ah, sta 9.10. Già lo sento, sì. Io ho abbassato l'attenuatore per non sentire i rumori. Ma ci stiamo mettendo una moto, intendo. Come arrivano adesso? Brutta, brutta. Certo. Se non è Alice, ho visto. Poche, provate pure. Guardate, hai te. Dubbù, certo, non le muovendo. Gattuta, fischia anche quello che quello che ho fatto poc'anzi. Tre grattelli, burro. Ecco. Ah, fischia. Non c'è nessuno, tutti morti sono. Non ci ha visto, grazie alla carità. Vabbè, tutti morti siete. Mi sa che se andrò a via di San Paolo se c'è qualcuno vivo. Sono arrivati dal Logoso. No. Come si chiama? Visita Edu. Non gli va a male. Ho in giro. Lo porta in giro a passeggio il bambino. Sai che mi ha detto che non può pigliare soli, mi ha detto. Mi ha detto. Perlomeno ho detto così, no? Quando si sta in casa, anche. Lui ha sempre fatto il gatto. Deve essere così. Lui mi ha detto che non può prendere sole. Non l'ha detto a me, va. Però va tutti anche a casa. Vabbè, se lo porta in giro magari lo portiamo in macchina a farsi il giro, capisci? Solito loro escono in macchina e se lo portano appresso. Sì, a mangiarsi il gelato e gli dai che d'altro. Tu vai già bene da buio. Ti ha fatto bene, no? E ha mangiato il gelato. Anche noi non ne mangiamo, secondo te? Noi siamo ristretti, siamo, secondo il gabbo detto. vabbè. Graziano. Vabbè. Certo, con le condizioni. Non è che quando sotto l'ombrellone, no, che dice gaggio. A chi cerca sostituire sono a specchio, fa di male, all'usaio. Infatti, se non deve rimanere al gaggio, deve rimanere un po' caldo normale, deve darsi aria fresca e deve essere lì al fresco. E a chi dove si fa? A poter risultare in più cose con qualche metodo, cazzo, no, cazzo, lo puoi dire no, a chi riceve il cazzo male, cazzo, non si gira un cazzo, è pericoloso, capisci, che fa, cazzo, stava riservato, magari, là, perché è un po', un po' in macchina deve essere, ci deve essere fresco, non caldo, in macchina ci deve essere fresco. beh, ovvio, calcio, è come se non nasce, capisco che è calcio. Ah, ti fa di bel malmo, perché crea lo so un vapore, lo so dentro il polmone. Infatti, la macchina ci deve essere arieggiata e aria condizionata, ci deve essere. Deve stare in mezzo, non deve stare in mezzo alla corrente nel mare. Magari al fresco lo aspetto, magari penso che lo prendo in classe giuria, roba del genere, magari là. Però fresco non aspetto, non faccia niente, non so. Ehi, tu la capelli. Ah sì, tu la capelli. Ca non prendete, non sa cos'è. Infatti. Chi non lo prova non lo sa. Vediamo un po' se entra qualcuno. Franco! Franco deve essere sicuro. Oh, mi sembrava California, mi sembrava, invece no, era Franco. Se no, era Franco, era. Perché ce la somiglia la California. Ah, Franco di Tosso ce la somiglia. La voce. Oh, yeah. Non entra nessuno. Oh, il tuo andaggio si è perduto, però era il PMR, mi stava chiamando e mi sentiva a tratti, mi sentiva. Sicuramente era con quel portatilino, secondo un decibone, no, noi gli si danno dove. Infatti, io pure ho pensato a quello, perché mi sentiva a tratti, mi sentiva. Anch'io lo sentivo, al momento lo sentivo, e la volta l'abbiamo mirato il dread di apparecchietti. Ah, non vanno, poi se va a mettere un'antenna esterna lo funzionano più. No, con un'antenna esterna no, io non ce l'ho quello là, lo stesso. Con un'antennina appena più lungo va, però non di più. Ah, così. No, non vanno di più, Gian Maria. Con l'antennina appena più lungo mi vanno. E non con altro. Non cura di la gente. Perché l'ha messo in macchina. Stava girando il trottato e anche al via Rockefeller in quella zona lo sentivo benissimo e sentivo bene anche a me, ma io ero sulla finestra in sala, capisco che era all'aperto quasi e ci sentivamo benissimo. Sì, secondo dove sei Gian Marie, basta che ci in zone libere e cose più alto riesci a sentirlo e tutto quanto, però secondo dove sei è Sarrada. Infatti, ho provato anche con lo sgambero, ma niente a fare, nemmeno con lo sgambero ci vamo. Oh no, sono apparecchietti che fanno 1, 2 chilometri, 3 chilometri al massimo, ma non di più. E infatti è in linea d'aria pure, perché se trovo lo stacco lo faccio. Ma poi c'è scritto anche che in 3 chilometri, secondo lo stacco che c'è, non passa nemmeno. E infatti c'è scritto il manuale, già è vero. Prendere in giù e quando è stato ormai è passata quella voga otto. Prima sembravamo non so che cosa, invece dopo da un tratto tutti morti. Vabbè, ma comunque se lo vuoi usare si può usare. Non so che si può usare, però la verissura come cosa lo usa a fare da solo. Diciamo che parli da solo. Io ogni tanto quello lì me lo porto, però non fa, perché devi essere in una zona libera. Forse mi dovrò io stamattina, forse lì era libero e va via in nome. Quant'è che stai riportando? Devi guardare anche linea d'aria e poi con le onde del mare che te le trasporta. qua, qua, di lunghezze, questo qua, ma di fatti quanto è? Ma quello che ho io, quello che mi ha fatto coso di... che mi ha installato le frequenze Luca, quello lì c'ha 5 watt, c'ha. Oh, con 5 watt io penso che vada. Dovrebbe andare, con 5 watt dovrebbe andare, però ripeto, però se trova un ostacolo non passa, Quando se tu magari metto l'antenna a terra, allora vanno. Perché io ho provato da cosa, da un cava, mi sentivo al tonnello, mi sentivo al leoncino, mi sentivo anche in quello di oggi, lo devo immaginare. Non mi sentivo. Stiamo attaccando a me. Gianmarie, l'unica cosa è che quello che ho io, se ho un'antenna esterna, non anda. No, ma è anche quello, è vero, anche quello è vero. Aspetta di te, Luca. Oh, lui, stiamo aspettando a te a svegliarti. Io sono rientrato di quell'altro anno, da ma è pari? La prima volta, lui. Vabbè, adesso è tempo di andare a mare, cosa fai, cazzo? Di andare a frascarsi le chiappe. No, ma io devo qua, però sono un po' preso, niente di particolare, tutto con l'antenna. No, va a Camona? No, dalla Marina. Ah, va bene, va bene. Adesso comincia a essere affollato questi giorni, È stato. Non stava bene, ma sono caduti da... cioè, qua si chiude, mancato bene la macchina. Ma io ve la dico. 35 gradi con il buono certo. Mamma mia. In macchina è peggio, In macchina 30 dice che è peggio. Buonasera Luca. In macchina è peggio, quando andiamo a pigliarla che tocca Ruggiori, Oia. Vabbè, dunque. Ma io no, da essere le pigliate, poi stava iniziando alla città primaria, allora io ho pigliato. Sono andata allora a macchina? No, io sono sceso stamattina alle 9:30 a Porto Torrego, ho guardato fino alle 11:30 e le macchine erano e poi sono piano andato via. A me il mare non mi piace. Per carità, ma quando vado montato la cabina, io sono andato più a mare. Magari vado qualche volta, perché va lontano dal mare, però, seguo al freddo. Io già scendo, adesso più avanti comincio a portarmi gli ombrelloni, più gambe mi do caricarmi. Adesso si comincia. Appassionato al mare, vai lui. Un minuto di attesa, dai, poi non posso parlare, è già caldo, dovevo fare una attesa. Già caldo, addirittura calda molto. Dovresti mettere un'antenna sulla ringhiera fuori, fare un buchetto piccolo per il cavo e metterti un antennino fuori. Beh, un avventolino non gliela puoi mettere. Ho fatto l'aria a tre. Allora bisogna stare attenti, dai. Passaggi corti allora bisogna fare sto. Lui ci deve mettere un antennino fuori, ci deve mettere, sulla ringhiera. Sta pensando cosa fare, dai. Certo che è. Perché sono troppo stazionario, è pericoloso, va. Infatti, sono troppo stazionario, è pericoloso, sì. Chi è questo signore qua? Avanti, buonasera. A me stai arrivando, foto mi stai arrivando, con una radio un po' gracchiante. Detto che sei Santiago 9, 8, e radio gracchiante. Ciao, buonasera. Ieri stavi uscendo bene. quando state parlando quello di fuori. La radio era bella, oggi infatti non ti sento bene, è cracchiante la radio, o centrati bene perché non è perfetta la radio, forte forte, segnale 8 è. Però la radio è cracchiata come ha detto Tore. No, ha peggiorato, è leggermente ha peggiorato. Prova a abbassare appena appena il Maikigini. È ancora cracchiante, ha migliorato un po', ma ancora cracchiante. Adesso la sento perfettamente, adesso va bene. Già ti capisco, meglio di prima già è. Perché poco fa era cracchiante, adesso no, il tuo cracchiante l'è tolto però. È meglio di prima, Ecco il microfono ce l'ho avuto anch'io, quello della Procer, quello lungo laterale, sì, che c'è anche l'equalizzatore e il compressore, sì, quello lì c'è, è vero, c'è l'attacco al telefono, quello lì, se l'ho avuto, io quello lì, però è troppo voluminoso, era troppo grande, lo c'avevo forse, allora l'ho dato, va. È un bel microfono quello, però bisogna saperlo usare quello lì, perché c'è un sacco di funzioni e se no si riesce a accordarlo bene, cazzo, è un bombogo il microfono, No, io ti sento perfettamente, Francesco, io ti sento benissimo. Più rimane leggermente più bassa la radio, però è chiara e va bene secondo me. Adesso vi do poi la ricezione di Tore, vai tu. E da me si è abbassato parecchio di radio. Si è abbassato parecchio, comunque già ti sento lo stesso. Ma è pulita adesso? Pulita è pulita, però si è abbassato un bel. Lo so. Però è a zero, però la radio non è a tutti gli apparati che fa quel microfono, capito? Però se lo sai accordare bene, perché c'è un sacco di funzioni, ecco, 200, 250 e da poco di impreati francesi. Ieri ti sentivo bene, se stato sarei stato con quel microfono ieri, no? Okay. Lascialo così, va, infatti ieri che dico Linco ieri, perché l'hai detto tu, capito? Ti sentivo perfetto, Scusa, è una bella radio ieri, ecco, quando stavi facendo quel collegamento con quello lì e stavi dicendo veramente bene, infatti è tutto strano, che a un radio lo sento perfettamente. Stavo per entrarti a dirtelo, però vi ho lasciato chiacchierare, perché c'era un bel pezzo chiacchierato con quello lì. Sì, ok, no, a me già ti capisco io con quello lì, e a voi anche se sei basso, ti arrivi a me. Oggi, già sta facendo bene, però questo periodo passato si sentiva molto basso e male pure. Evidentemente adesso ha messo a posto tutto e già si fa sentire bene, meglio così. Ok, vediamo un po' se vuole entrare qualcuno, c'è un po' di bianco, no, c'è nessun altro. Vuol dire non vuole entrare nessuno, Gianmari, vuol dire che sono tutti fuori. Forse sono anche appena fresco adesso ancora, così. Già un aro fresco, aro gas. Sta facendo caldo, sta facendo caldo, per cui magari adesso sta bene al mare, al fresco, sotto l'ombrellone con la birra fresca, si sta veramente bene, però bisogna avere soldi, molti soldi in tasca. Cara Bobby. Ho notto. E tutto, adesso, cazzo, adesso costa troppo. Conosciuto lei il canguro bianco lì al quarto pettine, al terzo pettine pure? Sì che l'ho conosciuto. Tutti gli altri, tutti l'hanno passato, gatto, peccato. Che lì al terzo pettine c'era quello genovese, come si chiamava, che il figlio era CB, gatto, ti ricordi? Infatti, facciato tutti i figli. In chi l'ha tutto trasformato, va. Allora, quattro bettini hai pulsato? Prima erano tutti liberi, andava chi piaceva, adesso invece è tutto diverso la situazione. Noi prima campeggiavamo lì, io e compare Gavino, Passero, e anche 2001, parecchi. E lì avevo fatto un escorso a Mario Mao, del vino una giovanità, una settimana a Cussi. Purtroppo, tempi baciati. Due vino avevo fatto, gatta. Una volta con Mario, avevo fatto, gatta, tutta la Sibiglia, cioè, chi voleva venire, che stava a mangiare bene lì a terzo pettine. Noi siamo mai per un gatto, mi vedi cibi a rivedere, gatta, e ti attendi, gatta, ci stanno la ciappazza, abbiamo il culto forte, la lì, anche non ci siamo presentati. Allora, sono giunti una cinquantina. È un bel ce n'era, no? È un bel, cazzo, ci sono presenti. Si è risata, però non ci siamo fatti vedere noi, anche se sono stati lì arrocciati. E ogni tanto Mario li dice sempre queste cose che si dice, che risate che se la busta. E fino alla una mi dice, da voi siamo spariti, fuggiti noi. Cazzo, si acciappa lì. E a chi vede la magna B, gratis. E io lo grido, allora sono tutti bagnisti, sono tutti, ma si salvo di Mario da voi. Ma si salvo di Mario, un avvilone, cazzo. Un avvilone. E qualcuno se la mettete da voi, se si fa proprio ciappato. Ehi, tu che è andata, lo più è proprio fatto. L'unica cosa è la farguccia per farci conoscere tutti quanti. Certo, fatiami, ogni maniera, gli altri l'hanno fatto a noi pure i bidoni. Allora era il periodo dei bidoni, cazzo. L'hanno fatto a noi pure anche questa. Anche voi ce l'avevo fatto noi, perché... Medi nei casi si fa dire mezzi fatti, i bidoni, allora sì. Infatti. Quando li fai bene si arrivano i dubbi, dice ma è una cosa, no, che non vi è nulla. E poi la sette pieni chi ti cazzo, anche ancora al terzo pezzo si scendevano parecchi, capito? Per quello noi campeggiavamo lì e c'avevamo anche la campagna in piazzata, sì. Così che quando campeggiavo in piazzata sempre la campagna, e allora era in voga la campagna, cazzo. Tu ci sei appena messa l'antenna in mare, in azienda, cazzo. E insomma, ma non ti dico niente. Noi abbiamo mangiato il bestia, siamo fatti da questi baccalori, cazzo. Boh. E lo mandava, andava a guidare, cazzo. Allora lo bestia, noi cominciamo, allora lo bestia vira. E tutti erano padroni, capito, non vogliamo andare. Papà non può dare più niente, oh. Sì, allora non si può fare più nulla. Mi sono indiviso a rivillaggio, puoi fare qualcosa, però non più di tanto. Fatto, Se fai soffrire con due gariti, ti puoi rimagnare. E se avrebbe mangiato, non è puro. Per carità, avanti, tracce. Beh, a essere sincero, io l'ho data a uno vicino a casa. Voi questo vicino a casa... l'ha dato a Sorcio, mi sembra che sia andato a finire con il microfono. Poi non so che fine l'ha fatto, non so dove che fine l'ha fatto, costava una busta cazzo di soldi lì, con il microfono allora. Io ce l'avevo da parecchio, capito? Me l'ho visto al computer, me lo sono ordinato e già lo stavo usando. Però era troppo voluminoso e non stiamo a posto, sto capigliando a prenderlo in mano e allora l'ho dovuto dare per forza, capito? E un attimo, c'ha tre tipi di attacchi c'ha dietro, o quattro, non mi ricordo bene, ma mi sembra solo tre o quattro, attacchi dietro c'ha. Sì, posso attaccare anche a parecchi apparecchi. Sia Kevus, sia Linko, sia la cosa, la Iaesu, tutti quegli apparecchi li potevo attaccare quello lì, eh. Sì, è un po' coperto sì, stiano, perché c'era solo in FM, ci stavano coprendo, va bene. Ok, allora avanti to. Sì, c'è coso lì, secondo l'apparecchio funziona bene, secondo l'apparecchio innesca un po'. È perché bisogna saperlo regolare, è un bel microfono, ma è troppo grande, gatto, era troppo grande. E poi c'è il compressore, gatto, l'equalizzatore, da poco di effetti, gatto. Lo potevi adattare a qualsiasi apparecchio, perché scritto mi sembra Linko, mi sembra, non mi ricordo bene, non mi ricordo, Linko, allora, la Iaesu e il Kevusu. Sì, infatti quello è Kevusu, a me mi è rimasto l'adattatore del Kevusu, mi è rimasto, cazzo, l'avevo pagato un bel di soldi quell'adattatore. Che l'avevo attaccato allora avevo un apparecchio che allora l'avevo attaccato col microfono, però bisognava saperlo maneggiare, ecco. Però non si faceva uscire bene, ecco. Però è finito il microfono, il Prozel. Ok, bene, riprendo. Quel microfono lì l'ho visto in internet e costa 145 euro. Ehi, mi sembra che l'ho pagato di più io, l'ho pagato molto di più. Allora, è molto grande, però sono due tipi che ne sono, sono precisi, però uno c'ha più cose, capito? Sì, uno c'ha più cose. C'ha due slitter, invece l'altro ne ha uno solo slitter. È un bel di cose c'hanno, però ripeto, come ti sto dicendo, non è a tutti gli apparecchi che vanno bene, alla Iaesu e a cosa, e a che vi do una bomba, il microfono. Bisogna saperlo regolare bene, bisogna saperlo, perché se no non vedete se a regolarlo è inutile che ce l'hai. È facile. Sei la già di microfono, certo. E c'è già per componente, cazzo. Ma c'è già il microfono l'ho bilato, cazzo. Da voi la mia volata sarà di che saera. L'MB8 della Inco, cazzo, anche quello era preciso, quasi preciso all'MC60, però era molto più robusto e c'aveva più cose, anche quello, l'avevo dato a portatore in cambio di un videoregistratore, capito? E anche quello, almeno la marca di quattrini costava. Per carità, mi dice, ma se me la viene addorrata se la caggi qui, Luca, sto, cazzo, ma mi deve andare in gita, mi deve andare. E infatti, vedete così, mi preso un montone di legnata, poi gli ho dato un buona cazzata. E allora, cazzo, sa che avevo fatto, non era Porto Torso, no? Sassari, a Coso, a Zorro. Zorro, quello lì, lui mi ha dato un video registratore con un bel di lastri, un bel di film, e si è attaccato e si è aggiunto. Così che anche quello era un bel microfono, certo. Ehi, l'ha già avuto. Ma, altri tempi, so. Ah, sì, più scava. Dai, stiamo bene come ci sembra. Sì, venne senza truppo, venne. Ehi, la buia. Venne senza truppo. Ora! Ora! Tu sai che in FM ti stanno coprendo, aspetta. Si vengono più forte di te, arrivano qua. Aspetta, non ho capito niente. Lo copro, l'FM lo copro completamente. E così, insomma. Quello era un microfono che andava bene a coso, a 2000 della Kevusu. Sì, se tu mettevi quel microfono a 2000, cazzo, guarda, dovevi abbassare perché ti faceva sordo, aveva una tonalità perfetta, penetrante, guarda, dovevi abbassare il volume perché se no ti faceva anche le orecchie, perdizio. Al 2000 andava molto bene quell'apparecchio, e il microfono suo proprio. Ti sarò coprendo, ti ho sentito sfuggita, ma ti sarò coprendo l'FM. Io non capisco niente, lo copro completamente. Sì, sono 9,95, capo, lui arriva quasi 9, per cui, anzi 8,5 quasi 9. Però lo stufano e lo copro completamente. Io ho provato a cambiare, a vedere, ma mi pare che fino a faccia non ha stessimo, manco io lo capivo. Ora, manco io ti capivo, Ora ne ho. Sto 5 minuti, ma sempre, 5 minuti. Gianmaria, sono qua. Attenzione, Bacchigio! Eccoci tu! Attento, c'è lo Bacchigio! Ore! Viaggio Marì! E beh, rientrato Bacchigio. Tu non hai riposo ancora? Sì, se va in campagna ancora senza di rigurarci. Sicuramente. Sarà senza di rigurarci, se la sentendo. E allora, sotto l'albero, con la carabina, come se si affaccia a ricordare un colpo. Capito? Bacchigio. Se no entra fra 5 minuti. Già entra senz'altro a salutarci, va. Sarà indaffarato o ancora attenti, sarà ancora attenti. Così che ancora si è presto. A dire. Aspetta, ma c'è la cattumba di QRM però, Si è sollevato parecchio, ancora per uno in FM e voti. Infatti, c'è molta gente in FM, allora quello lì è il QRM che si crea, capito? Mi sbaglio, se non mi sbaglio, Bacchigio. Bacchi, tu sei? Uno su d'Italia che braccando sta, brecca, hai sentito? Anzi, su d'Italia. Buonasera, ben sentito per la primavera da Gian Maria in tandem con l'ottore questione qua a Sassari, dalla Sardegna, un po' bassino, però riesco a copiarti abbastanza bene. Ok, buonasera, ti passo per i saluti a Torre, vai tu. Buonasera dalla parte di Brindisi, ok, zona Sassari, Sardegna, ok, buonasera anche a te. Ti sta coprendo perché c'è molta gente in FM e ti ha coperto tutto il passaggio, solo la finale ho sentito solo e basta, non ho capito niente a causa delle sopravvivazioni dall'FM. Oh, senti, a volte lo sento, a volte sparisce. C'è quest'altro che è dal sud Italia, Mattesi, che fa vedere più o forse debbo. L'FM lo scopre maledettamente, c'è molto QRM, mi piace l'amico di Brindisi, però purtroppo non passi più, non passi più perché ti copro completamente. Magari sarà per la prossima, ok? Ti saluto comunque da Sassari. Magari veni giù troppo e non si capisce più nulla. Io ho sentito la finale, boh. Lo copriva completamente, non si riusciva a capire più niente. Sì. E quello è l'amico che stava parlando ieri con l'uranio, Io ho sentito la finale e poi non l'ho più sentito. Infatti, perché veniva coperto completamente. Per carità. Ah, Chisio! Una gara, ma come... Ah, Marco deve essere... A mare deve essere a Brosendi di Gatta. Adesso si mangia il gelato e dopo sale a Sassari già entra anche lui. Sì. Disperato. Certo che andiamo bene, andiamo. Lui quando c'è a mare si mangiava il gelato tutti e due. Figlio e madre si prende un bel gelato e si mettono a passeggiare e fanno bene, va. Sì, andiamo. E poi un gelato fresco a mare si sta bene, si sta, A voi da questo gatto si certo che non mangiare fuori diventano un carori. Certo. Adesso comincia. Da voi vorremmo un fresco tutto. Ce la mettiamo che fai troppo gaggio. Ma che campagna si stava bene? Stava veramente bene ieri, cazzo. C'era appena appena l'arietta, ma quella arietta lo faceva veramente piacere, là. E oggi, ma arietta lo c'era oggi, mi sembra che è tutto caldo. Sta salendo in seta, mi ha detto, la torre è salita in Serie B. Com'è? La torre è salita in Serie B. Oh, salita, Bobo. E da fine la torre se che. Avanti c'è la torre in Serie B c'è stata, avanti ce la sappiamo con l'Ovia. Chissà, e poi è più in mangia i chivi, cazzo. Sì, no, ma con questi allenatori, con questa se c'è, già lo fa, la fa salire con questa che ha comprato tutto l'allenatore buono. Ma tutto dipende dai componenti della torre, mi pare i chivi e a più mangiare di più. Pigliano e pigliano e non pagano, capito? Ecco lo faccio vedere, da voi andate in fallimento, dai si mangiano il tutto. A me pare che l'ha comparato a giorno uno, a quattro, adesso è uno solo. Cazzo, a pensare come era prima la torre, cazzo, quando era Muccinetto, cazzo, comandava tutta la torre, allora sì. Ma allora di là Firani, va di là Bari non viene più. Chi l'ha comprata questa qua già Firani, di là? Se riesce a farla andare da Nazi. Basta tenere il conto di là. Non essere il precone, non bisogna essere il precone, no. Già sarebbe cambiato, manco finalmente il tuo sei alla fetta. Da voi magari puoi pedire che cosa, se no prima ti mangi tutto, allora che di colpo lo prendi di... Ah, già che ti devi di fare la torre, se non hai idea. Però meno, prima prima tira via. Adesso mi pare che non ha più. Tira solo tutto, tira. Ha fatto che ho pagato tutti i debiti delle cose, e quindi ce l'ha questo qua. Se salita in Serie B, vuol dire di eliminare a Biglio. 5-5-23. Ah, mira, signor Battiso mio. Vabbè, signor Battiso, lo ci fu sempre. C'era così lui, no? Io sono facendo 5 da poco fa. 5-5-23. Volevo fatto che andare avanti, avanti, non ci vede mai. Signor Bacchigio, è lui che ha il pensiero, che ancora non è entrato il signor Bacchigio, il pensiero sotto l'albero con la carabina tentando le cornacchie, cazzo. Così e ma chi? Buonasera, ben sentito, avanti, avanti. Così, hai sbagliato con voi. Aspetta, questo è questa qua, il tipo da Genova. Aspetta che lo facciamo entrare. Avanti, il tipo da Genova. Sì, buonasera, della signora Rossa, tu di Genova, come sta? Sì, anche a te, qua da Sassari, che stiamo modulando. Ok, ti passo agli amici. Avanti, Bacchi. Sì, salutiamo la luce a Freccia Rossa da Genova, buona serata. Andiamo a crisi qua da più di Genova di Sassari. Sì, ho capa, va bene, buona serata, fine domenica, dove pure avanti, tanto c'è qua c'è un po' di casino, c'è un po' di QRM. Comunque ben sentiti, buona serata, avanti capa. Sì, non intendi più. Oh sì. Se ti ascolti l'amico, non ti sentiamo più, Che la freccia rossa arrivava forse e poi dopo è sparito completamente. Attento freccia rossa, ti hanno coperto le femme. C'è un po' di la USB, amico, i saluti da Genova, rossa, morito, ciao ciao. La propaganda un po' troppo brutta, troppo propaganda c'è, per cui arrivi a tratti e non si capisce niente, comunque. Comunque buonasera, l'amico di Sassari che ti saluta. Ciao, molto sì, va bene, ci siamo. Buonasera, ciao ciao. Perfetto. Sì, da usare un dato. E allora Gianmarino? Dimmi tutto, Otto. Ho tutto vecchio qua. Se battiglio che non barare si fa gira. Ma lo sento strano, Da te, a lui c'è un abisso, certo. Ma chi se ne sembra? Dentro la tabulana. Capito? Il segnale è forte, ma come radio non mi frace di capitalismo, non mi frace. Però già si capisce ugualmente. Aiuto! Ma gargarismi fateli ai oggi! Io sono imbarazzo, poi non sarà da mollare perché arrivo così in colpa che è una cosa strana. Non è la tua solita modulazione, è più pesante questa qui. Perché mi mette il filo troppo vicino alla bocca, ma chi? Adesso mi capisci? Ho capito, ma chi? Perché ci mette il microfono troppo vicino. Sto parlando lontano, perché sono vicino al centro, non mi preoccupo. Adesso ho sentito bene. A me mi sembra ma chi tu oggi vuoi fare i gagarismi, di la verità stamattina, La mattina bisogna fare i gagarismi. Ma chi non mi senti? Non mi senti? Da Marino, nulla, non si è fatto sentire, da Raghe da Bastarda non si è fatto sentire tanto. Non si è sentito nulla. Se non noi, siamo più di una ghetta che non sentiamo. Non lo so, non mi prendi Gianmarino? Io sto, io chiudo dai, che sta avendo gente per cui li appunto. Io ti ringrazio per la piccola chiacchierata, anche se è breve, fa sempre piacere, dai. Buon proseguimento, ciao solo in casa, ciao Bacchi, ti raccomando, sempre alta la vista. ci sentiamo domani se coincide. Buon proibimento, saluto in casa, che riprende i banchi, chiudo. Ciao Germania, ricambiate i saluti anche per il tuo programma familiare. Buona serata ancora, buon proibimento di domenica. E ci sentiamo domani se ti coincide. Buona serata ancora, Matisse, avanti Toro. Sì, ok, Bacchi. Ciao Germania, ci sentiamo alle prossime. A domani, se tutto va bene, ok. E allora baci, vedi di matrimonio. Di matrimonio, ci devo rompere il ballone e andare a questi posti. A stare lì a lavorare seduto, non vogliamo d'accordo. Quando ci siamo seduti a lungo, abbiamo fatto che non esce qualcosa. E ancora è il mio che sta bene, è quello che mi è già cambiato. Sì, è fatto bene. E hanno già un matrimonio, più che questo non puoi va. Quando sei stato lì è ancora più, se vado a venire lo godo. Samba si sta svegliando dall'altra tra i mari. Samba, non la samba si sta svegliando. E io poi voglio pure che devi uscire dal palazzo. Certo che anche noi andiamo troppo. Solo con tua moglie? No. No? No. Sì, vabbè. Andate, andate, purtroppo. Bisogna farlo, grazie a tutti. Basta, niente, non ho mai riuscito. No, in campagna c'è stato più bene, e l'albero del lavoro che stanno parlando, no? Ho messo con un bergolato, e non è niente loro. Infatti, in campagna si sta molto più bene, sì. Andava bene. Sì, io da mangiare invece con mio nipote, il mio portatore già vorrebbe la gara dei rini. Sì, facevo un po' di salute. No, io a Balai ero fermo lì, nella rotonda di Balai. E già arrivato tutto in Siria, poi a piano piano sono partito. In casa, non si vedeva qua. Io la portatore che quando l'ho presa la macchina mi segnava 29 mi segnava. Era di mattina, ancora non si andava il sole. Una casa male si può fare. Allora, a me la televisione, ho fatto il genere, mi ha la macchina passa davvero se la Hyundai. L'argentiera si vede. Sì, ho compreso. È tutto così. Andate. Ah, va, sto passando, abbiamo finito pure lì. Buonasera a tutti, sto uscendo, sto andando a cena fuori da mia zia, ciao. Buonasera, buona serata. Buona cena fuori a nuova. Non mangiare molto, mangia poco. Sarà fatto, ciao a tutti, ciao. Sì, ciao Marco, buonasera. Ok, andate. Sì, sì. Ma come sta andando? 40 canali nuovo? Sì, 40 canali nuovo. Ok, quindi ci sono altri o non ho controllato? Ho trovato. watt, sempre 4 watt. 4, ok. Ne ho visto uno, però c'è un bel sito. Visto uno, il presidente Grenzi 2 omologato a MFM USCG. E quanto? 150-200 euro. Sì, 200 euro. Ho preso il servizio che è 260 euro. Non è molto vicino. Ho fatto 4 chiacchiere e basta questo. Infatti, come sente più. Se mi sento più qui, a mia figlia lo vorrei chiedere, perché se nel Regno Unito un po' di questo che siamo passati noi, perché se i danni di tutto il carbone. Poi non so quanto costa il mio Regno Unito, però se lo compro lì, devo rinnovare poi. Sì, lo compro lì, me lo porta lì. Allora sì, come se mi donava roba di amica. Infatti, il mondo diventa la valigia di Bebedoglio, in me ne ha arrivato. Non è che la costa non è questa, non c'è costa più di qua. No, se costa poco, come quello che avevo visto io quando sono andato. Ne aveva visto uno, se costava così poco, come sto dicendo io, allora andavo. Se il resto costava poco, e se ho volato anche lì. Quello ho visto nel coso, in internet l'ho visto, è costa 260 euro, ed è omologato, c'è già tutto, è tutto quanto. Questo qua, presidente 32, questo qua è omologato, sì. È omologato, questo qua è omologato. È omologato anche il buono. Questo va bene, c'è un nulla. Ecco che sia. Devo studiare come esce il microfono qua, cioè se si stacca o no, ma c'è questo. Aspetta, domani guardo a vedere nel coso, YouTube, a vedere se lo fanno vedere se si stacca o no. Se lo fanno vedere, lo trovo. YouTube deve guardare se lo fanno vedere, anche aperto se lo fanno vedere. Siamo riusciti a rilasciare. Deve mettere Midland, cos'è? 78, cos'è? E poi lo forme di YouTube. Che cinque? Mettere Midland Mini, M Mini, e devi mettere YouTube, e ti esce tutto quanto su YouTube. Ci ho provato la prova, non ci sono riuscito. Non mi arriva la foto, me la chiudo in faccia. Sul telefono sì, ma sul coso, vai su. No, su YouTube devi andare, per scaricare l'affare di YouTube e lo cerchi lì. Non lo so. Vedi tu che sei più aspetto di me, guarda, e poi mi dice se si attacca o no. Perché se si attacca mi si affiglia il nostro microfono. Sì, te lo guardo domani, te lo guardo. Domani sera, sono libero. E vedo cosa fare. Sì, a te. Grazie. Grazie. se c'è il comune che li cambia solo, la mente ha parlato, non possono cambiare. Infatti c'è il cambio dei canali dal microfono, ma per quello era quello di cui mettere non so se si staccano. Sono vero, quando me lo fa vedere, perché lo vedo anche aperto del disco. Si può cambiare la cassa, se no fa dire che l'uomo resto. Lo fa uscire un po' più nella teoria. Sì, ma se abbiamo messo quella cappella lì, perché solo con quella, mettendogliela la più grossa, non lo so. Sono sempre il capitolo mio. Ho visto, è più a radio che mi nuovi. E se già vuoi dire che mi... Sono appoggiati, appoggiando così. E stanno nella tasca delle due cose, sono parte della portiera. Sono qui non vi atto. Sì, infatti, sta nella tasca della portiera qua. E le provate come esci? Mi ha portato anche in campagna. Quando che si vede, sono fatto un grande piatto, perché la non è fatta. Un grande piatto la porto in campagna, e lo provo la campagna come un po'. E vedi a vedere se esci. Così guardiamo a vedere se esci da qua. Niente italiano, niente, non possiamo parlare. Ok, da sì, io direttamente. Sentiamo domani, ci sentiamo, ok? Signore, grazie della chiacchierata, sotto la signora, perché io devo scappare, arrivato per loro, lo sai, anch'io. Devo mandare tutto per andare. Ciao, buona serata ancora a voi. Ok, ciao, Bassi.